9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi è una puntata un po' particolare che, come l'anno scorso, per qualcuno di coloro che tra voi ricorderanno, esattamente all'indomani della festa del Redentore a Venezia, noi cogliamo questa occasione e approfittiamo della benevolenza del patriarca di Venezia, di Seminenza Cardinale Angelo Scola, che ci accorda di parlare insieme a noi e insieme a voi che siete in ascolto qui per Radio 24 del tema che ogni anno mette al centro della sua lettera rivolta ai veneziani in occasione della festa del Redentore che si è tenuta ieri. E quest'anno il tema della lettera di Sua Eminenza ai veneziani è stato un tema fondamentale nella vita di noi tutti, fondamentale anche per le code polemiche che in questi ultimi tempi ha sulla stampa, ma il tema è quello del bell'amore e della sessualità, partendo da questa immagine biblica tratta da un libro sapienziale dell'Antico Testamento, il libro del Siracide, che io comunque vi invito a leggere. Il Siracide, come il Coelè, è uno di quei libri che si pone il tema centrale nell'Antico Testamento, se già beh, Dio è così buono, perché allora c'è il male, noi viviamo nel male. Quindi è un libro che risale al III secolo avanti Cristo e pieno di passaggi su cui riflettere. A un certo punto, a proposito dell'elogio della sapienza, c'è un passaggio in cui si parla del bell'amore, si parla della sapienza come madre del bell'amore, e questa categoria del bell'amore viene posta come un interrogativo all'inizio nella lettera che il patriarca rivolge ai veneziani, e senza evitare riferimenti a nessun tema tra i più delicati dell'amore e della sessualità, il patriarca svolge ieri ai veneziani la sua riflessione, e per questo gli chiediamo oggi di farlo insieme a noi, ringraziandolo. È collegato con noi, io ringrazio il cardinale Scola. Buongiorno cardinale. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie della sua introduzione che ha situato bene il mio tema, grazie molto. Allora, nel chiederci all'inizio cosa vuol dire bell'amore e quando l'amore è bello, lei a un certo punto inizia la lettera chiedendosi: c'è bisogno di una nuova grammatica dell'amore. Cosa vuol dire c'è bisogno di una nuova grammatica dell'amore? C'è bisogno, come quando scriviamo periodi aggrovigliati, di ritrovare la collocazione del soggetto, del predicato, del complemento. Ora, a me sembra che per quanto riguarda la questione dell'amore, noi viviamo in un tempo in cui la comprensione del fenomeno che è sulla bocca di tutti noi tutti i giorni è diventata confusa, perché non ne conosciamo più bene le parti del discorso. Allora è parso a me utile e opportuno, a partire dal mio compito di vescovo, cercare di offrire a tutti gli uomini, a tutte le donne di oggi, la grammatica elementare dell'amore che Gesù ci ha insegnato e che secondo me è estremamente conveniente per l'uomo di oggi, anche se spesso molti pensano il contrario o addirittura negano questo dato. Quindi ho voluto tracciare qualche linea riguardante gli aspetti sostanziali di ciò che normalmente tutti noi chiamiamo amore. Inoltrandosi poi nella trattazione, lei fa riferimento a un certo punto a interpretazioni dell'istinto sessuale da una parte, dell'amore romantico dall'altra, che sono anche battute dal sentiero delle neuroscienze, e dopo averle citate, aver fatto riferimento a questi studiosi, giunge però a un'osservazione che è abbastanza centrale, perché dice: queste posizioni mi sembrano un tentativo di considerare l'uomo come puro esperimento di se stesso. E allora spieghiamo un pochino meglio perché quest'uomo, come puro esperimento di se stesso, secondo lei non aiuta a capire che cos'è l'amore vero. Ecco, questa è una tendenza, quella dell'uomo come esperimento di se stesso, che nasce a partire dalle grandi scoperte delle biologie, delle biotecnologie, dell'applicazione della computeristica alla biologia e e della neuroscienza. L'espressione l'ho presa da un giovane filosofo tedesco che si chiama Jungen, che affermava enfaticamente questa tesi. Dobbiamo farla finita, se vogliamo essere felici, se vogliamo vivere bene, di continuare a pensare all'uomo come un soggetto personale, con una sua dignità inalienabile, come fondamento di diritti. Ma no, noi abbiamo cominciato finalmente, mettendo le mani sulla nostra genesi, sull'origine della vita e sulla morte, a conoscerci pezzo per pezzo. Perciò siamo un esperimento di noi stessi, dobbiamo accontentarci di queste scoperte che la scienza ci offre e ci fornisce, senza più far riferimento a valori ideali, universali e comuni, e di volta in volta adattarci a quei risultati che emergono. Allora, il tema dell'amore indagato da questa studiosa, si chiama Fisher, nella prospettiva delle neuroscienze, diventa una riduzione di tutto il fenomeno amoroso in tutte le sue implicazioni, a partire dalla profondità della pulsione o del dinamismo sessuale in senso stretto, su fino alle manifestazioni spirituali, diventa un aspetto delle varie modificazioni neuronali che si realizzano nel cervello. Quindi non ci sarebbe più un grande elemento di libertà, di scelta, di volontà. Vede che quindi è un'applicazione di fatto di questa tesi dell'uomo ridotto al suo proprio esperimento. Ora, a me sembra che tutta la nostra esperienza umana, a cui noi quotidianamente, ogni mattina, per riprendere a vivere, facciamo riferimento, è come una negazione e un'alternativa di fatto a questa visione che nasce da una certa ebbrezza scientifica, ma che non è in grado in realtà di dare un conto effettivo di ciò che succede ogni giorno nell'esperienza elementare della nostra vita e di ciò che succede appunto con gli affetti, con l'amore, col lavoro e con il riposo. Sembra a me che noi dobbiamo invece, in questo momento di grande cambiamento, per ritrovare la grammatica dell'amore, dobbiamo riscoprire l'io in relazione. Cioè, dobbiamo scoprire che nessuno di noi può dire io senza dire tu, e l'uomo-donna è la strada elementare e fondamentale per imparare questa relazione io-tu, che poi a sua volta è la condizione per conoscere tutta la realtà. Però, Eminenza, lei quando dice questa centralità dell'io in relazione, quindi un processo di scoperta, niente è dato né dall'istinto sessuale né dalla pura biomeccanica delle nostre sinapsi neuronali, quindi la scoperta dell'io in relazione, però dice nel rapporto uomo-donna in realtà non siamo in due, siamo in tre. Che è una cosa apparentemente paradossale, però è la differenza ovviamente poi tra chi crede e chi non crede. Ma anche direi di più, direi tra chi osserva il fenomeno dell'amore in senso totale, in senso pieno, e chi invece anche involontariamente lo riduce. Cioè, l'amore, che tra l'altro su questo bisognerebbe spendere del tempo, ma casomai avremo occasione un'altra volta, non nasce su un istinto sessuale, non esiste un istinto sessuale, esiste un orientamento sessuale di tipo biologico che apre a una opportunità, la chiamerei così, di incontro con l'altro attraverso quella relazione assolutamente comune, costitutiva tra l'uomo e la donna, che mette sempre in campo un elemento di tensione al compimento attraverso la reciprocità, che però, proprio perché esalta il volto bello dell'altro, è diffusiva e quindi è sempre anche orientata ad un dinamismo di fecondità. Sempre mette in gioco il terzo. Ora, il riferimento che io faccio alla Trinità è lì per documentare questa realtà a tre, cioè per documentare il posto del terzo che sta sempre dentro in ogni relazione. Ma al di là di questo riferimento a un mistero cristiano, ognuno di noi può capire nella sua vita che quando scatta il rapporto di amore autentico tra l'uomo e la donna, tutte e due queste dimensioni, la dimensione dell'unione e della complementarità reciproca che tende a diffondere bellezza, che tende a diffondere amore, entra in campo. Quindi bisogna, diciamo, una verifica dell'amore vero sta nel fatto che i due sono capaci di far spazio all'altro oltre loro due, esattamente come l'inizio di questa verifica dell'amore vero è che io, amando, sono realmente capace di amare l'altro di un amore che libera e non di un amore che lega, di fare realmente spazio all'altro. In questo senso si capisce perché noi parliamo di bell'amore, perché l'amore è bello proprio perché la bellezza comunica se stessa. Bonaventura ha un'espressione molto bella, dice che colui che si sente amato da Dio e che ama Dio, dice la dico in latino, pulcrificato, cioè è reso bello. Ecco, il compito dell'amore è rendermi bello. Un uomo e una donna che si amano devono fare l'esperienza di questa bellezza, e questa bellezza per forza di cose è orientata al terzo, tende a diffondersi. Del resto già Platone e gli antichi dicevano che l'amore è diffusivo di sé. Però, procedendo oltre dalla definizione, via via che poi ci si avvicina alla realtà e ai nostri tempi, a che cosa è l'amore intorno a noi o a cosa viene spacciato per amore intorno a noi, lei a un certo punto fa un riferimento a una cosa che mi ha colpito molto e che a me personalmente persuade, non so a chi, a quanti di coloro che stanno a casa. Dice che in realtà essere poi responsabili della mercificazione, della commercializzazione e soprattutto della consumazione rapida, immediata, tumultuosa dei rapporti che si scambiano per amore e che invece diventano un tutto e subito nei rapporti amorosi e di sesso, in realtà a orientarci in questo, a scandirne il tempo sempre più rapido, è la paura della morte. Sì, io penso di sì. Cioè, del resto, diciamo, già Freud metteva in relazione i due dati. Credo che il terrore della morte cosa mette in evidenza? Mette in evidenza che il desiderio, quando è interpretato in tutta la sua forza e in tutta la sua pienezza, domanda il per sempre. Cioè, in realtà il desiderio è il desiderio di essere amati definitivamente, di poter durare e quindi di poter andare realmente nell'esperienza dell'amore o morte per poter a nostra volta amare. Allora, fino a tanto che non si affronta questo problema, il timore della morte si insinua nelle nostre relazioni e, volenti o nolenti, tende a condizionarle. Proprio per questo noi siamo portati ad afferrare, cioè siamo portati a trasformare la persona che amiamo in un oggetto da cui, starei per dire, se mi si passa l'espressione, spremere tutto e subito il massimo possibile di bene che me ne può derivare. E quando allora questo porta ad una assolutizzazione indebita del rapporto, che quando viene meno può portare anche a figure gravemente patologiche, come vediamo anche in questi tempi dalle cronache, insomma, senza di me, senza questo amore, appunto, la morte vince e quindi io chiudo la tua vita e poi chiudo la mia vita perché non ha più senso, perché amare è puro fallimento, diventa puro fallimento. Invece il problema è interrogarsi e domandarsi se questa possibilità di amarci per sempre, che è al cuore del nostro desiderio, io dico sempre, ragazzi, vi sfido, quando siete autenticamente innamorati, a dirmi se siete capaci di dichiararvi alla vostra ragazza dicendo ti amo senza aggiungere per sempre. È inevitabile aggiungere per sempre, questo fa parte della struttura, del cuore dell'amore, lo diceva già il grande Shakespeare, che in uno dei suoi sonetti afferma che l'amore non è amore se viene meno quando l'altro si allontana. Allora, il problema è come garantire la possibilità di questo per sempre, e così abbiamo introdotto, dopo il problema del terzo, della fecondità di cui abbiamo parlato prima, un altro elemento costitutivo dell'amore, che è la questione della fedeltà. Ecco, e inoltrandoci in quelli che sono diventati nei nostri tempi e da tempo, nella modernità e nella postmodernità, più degli idoli polemici verso la Chiesa che dei valori compresi, non dico condivisi, ma per condividere o rifiutare bisogna innanzitutto comprendere. Uno di questi è anche legato alla castità, cioè al governo del sé, per così dire. Lei ne fa una categoria fondamentale per spiegare appunto la necessità del ritorno al bell'amore. Io le chiedo, da una parte, di richiarircelo, dall'altro, quanto nella sua attività di pastore, da che è prete, prima ancora della carriera che ha fatto, ha toccato con mano che nell'opinione dei fedeli e anche di chi non crede, in realtà questo problema sulla castità e sul governo del sé deriva forse da il confondere la questione e il valore in sé, o la comprensione di che cosa voglia dire questo meccanismo di autogoverno, per così dire, rispetto poi all'evoluzione, alla prassi storica, a quello che succede nel tempo e nel mondo, a quello che succede anche alla Chiesa e così via. Tre, separate queste due cose ma insieme unite, perché poi chi è a casa dice eh sì, voi state facendo tante belle parole, ma nella realtà il mondo va diversamente. Capisco. Allora, ringrazio molto, perché questo è un punto cruciale. E oggi parlare di castità sembra totalmente fuori moda, è una virtù che è negata e totalmente bistrattata. Ma allora cominciamo a dirci che cosa significa castità. Castità significa tenere in ordine il proprio io, vale a dire fare in modo che tutte le dimensioni costitutive del proprio io, che è una unità inscindibile di spirito, di corpo, di anima e di corpo, richiedono alla mia responsabilità, alla mia libertà, un lavoro di edificazione di un ordine, per cui man mano la vita va avanti, nonostante le mie defaillance, ma dopo su questo casomai torneremo, io sento realmente che c'è una storia che cresce. E a me colpisce moltissimo, sto facendo da 6 anni la visita pastorale, e spesso alla fine della messa della domenica ci sono 2 anziani o anche di più che si avvicinano e mi dicono: patriarca, questa settimana abbiamo celebrato 50 anni di matrimonio. Ecco, quella lì è come dire una delle espressioni del bell'amore di cui parliamo, che ha saputo tener conto certamente della castità come di quella virtù che consente di tenere in ordine il mio io e quindi di farlo crescere. Perciò la prima cosa che noi dobbiamo fare è riproporre la castità in questo suo valore assolutamente positivo. Ovviamente, che cosa questo comporta? Questo comporta un intenderci bene su quali sono le condizioni dell'amore. Allora io mi introduco per spiegarlo in questo modo. Esiste una azione o diciamo un esercizio stabile di attività umana che non comporti sacrificio? Forse che certe giocate bellissime del campionato mondiale di calcio che abbiamo potuto vedere non hanno alle spalle la fatica e il sacrificio dell'allenamento? Forse che l'ascesa in montagna non implica una ricerca d'ordine che ha dentro una dimensione di sacrificio? Ecco, ciò per cui stranamente la castità fa problema in ordine alla sessualità è l'accettazione di questa dimensione di sacrificio. E invece questo sacrificio non annulla, non svilisce, non sminuisce il desiderio, ma al contrario potenza il desiderio. Perché? Perché lo tiene aperto a 360 gradi sull'altro che amo, e attraverso l'altro che amo lo tiene aperto su tutta quanta la realtà. E qui bisogna operare, secondo me, per capire l'importanza del sacrificio come condizione del vero possesso, l'importanza del distacco come condizione del vero possesso. Bisogna capire una importante distinzione che è stata molto chiara fino a tutto il Rinascimento, fino a oltre 600, che poi è andata perduta: la distinzione tra il piacere in senso stretto e il gaudium, il godimento. Il piacere è sempre istantaneo, è sempre puntuale, soprattutto il piacere sessuale in senso stretto. Se io non lo inserisco in una prospettiva di vita, in una prospettiva di soddisfazione generale, se io non lo inserisco nel gaudio, non do al piacere istantaneo la possibilità di durata. Il senso della dimensione sessuale in forma stretta e specifica è proprio quella, deve essere proprio quello di favorire tra gli sposi un tipo di conoscenza reciproca, di ascolto, di fecondazione, di apertura così totale, per cui il piacere non finisce, ma tende a durare sempre. Sarebbe bello, se avessimo tempo, in un altro campo, parlare di come il grande Sant'Ignazio si è convertito proprio riflettendo sulla differenza tra il piacere che finisce subito e il piacere che dura. Allora, la castità è esattamente questa energia virtuosa che potenzia fino in fondo l'amore, perché è capace di condurre il piacere al gaudio. Certo, per fare questo devo essere libero al punto da saper tenere in ordine l'io, come quando voglio vedere all'Accademia delle Belle Arti di Venezia un tintoretto, mi situo e mi colloco alla distanza giusta per poterlo godere, per poterlo possedere. Analogamente deve venire nel rapporto amoroso. Bene, noi avevamo mezz'ora con il Sua Eminenza e abbiamo tentato di approfittarne. Avete capito che il bell'amore e amore casto non sono affatto una fuga dalla realtà, o sono una specie di dipinto di qualche cosa di incarnato, scorporizzato. Sono una riflessione profonda su ciò che la paura della morte o la riduzione nichilista all'uomo come un puro esperimento di sé spinge l'uomo a confondere per amore ciò che non lo è. Sono l'ennesima nuovo tentativo di riproporre la via cristiana alla sessualità equilibrata e all'amore come amore di coppia casto, fedele, duraturo, come qualcosa che non è affatto ablato dalla realtà, ma che è una maniera di concepire una scoperta del sé con gli altri. Io capisco che a molti di voi a casa tutto questo possa sembrare fuori dal mondo. Io credo che sia fuori dal mondo confondere l'amore con il commercio, la prevaricazione, il possesso e il buttarsi via alle spalle gli altri senza neanche guardarli negli occhi, come mi capita spesso di vedere che molti lo praticano, credono di praticarlo. Nel prosieguo della trasmissione, dopo la borsa e la pubblicità, ora questa pausa, approfondiremo e dibatteremo anche da punti di vista diversi quello che il Cardinale Scola ci ha consegnato, ha consegnato ai veneziani ieri, e in questa mezz'ora ha tentato di sintetizzare per voi tutti a casa. Eccoci tornati in studio. Come prevedevo, messaggi, reazioni, c'è chi dice che noia che barba, c'è chi dice che mi sono rimbambito, c'è chi dice che cambia canale. Io vi dico invece che se vi aspettate che su questi temi la versione di Oscar controcorrente non vada controcorrente, beh, avete capito poco di chi vi parla, perché in realtà siete voi che vi comportate così a essere i dominanti, perché seguite il zio vecchio Friedrich Nietzsche, cioè roba vecchia, capite? Anche se vi sentite molto roba vecchia e soprattutto sbagliata, quello che diceva che la predica della castità è un pubblico incitamento alla contronatura, capite? Quello che diceva che ogni disprezzo della vita sessuale e ogni concetto di impuro o di sbagliato applicato alla vita sessuale è il vero e proprio peccato contro lo Spirito Santo nella vita. Ecco, questa è roba di Friedrich Nietzsche. Avreste dovuto capire che nel secolo scorso, dopo che nell'Ottocento hanno scosso i pilastri del pensiero dell'Occidente, della filosofia, cioè, hanno prodotto qualche cosa che è abbastanza radicato dentro questo tipo di pensiero. Io non voglio arrivare a concatenazioni logiche dirette, che chi non attribuisce se non bionatura in atto, biomeccanica in atto all'uomo, oppure se non gli si attribuisce la pura soddisfazione dell'in sé per sé istantaneo, porta immediatamente al comunismo, al fascismo, alle guerre mondiali, alla strage, al genocidio. No, però di sicuro una radice del nulla a cui si riduce il tutto, quando la si pensa così, dovrebbe esservi chiaro che quello è praticato dai più, quindi siete in maggioranza e conformisti se la pensate così, dal mio modestissimo, umilissimo, che conta poco punto di vista. Ma per questo ho deciso oggi invece di rimettere al centro della nostra riflessione un po' di sane categorie, dal mio modestissimo punto di vista, che dicono che l'amore ha a che vedere con una scoperta del sé e dell'altro, il più possibile in una cornice di rispetto e di scommessa su ciò che è lungo, duraturo e profondo, invece ciò che si misura a una misura di reggiseno e a quante volte si riesce a consumarla. Io la penso così. E ve l'ho proposta insieme a Seminenza Scuola e oggi, e adesso vediamo nel prosieguo della trasmissione chi la pensa diversamente o ci può aiutare a capire perché questa roba sembra dalla vostra reazione direi arabo minoritario rispetto alle punti di vista di chi ascolta e che sono dominanti a quanto pare invece nel credere che cosa sia il bell'amore e il sesso. Cominciamo con due altri punti di vista, quello di Emma Fattorino, che insegna storia contemporanea alla Sapienza di Roma e anche storica della Chiesa, del modernismo, dei documenti del Concilio. Buongiorno professoressa Fattorini. Buongiorno a tutti. Abbiamo Umberto Curi, che insegna storia della filosofia all'Università di Padova. Buongiorno professor Curi. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, il punto di vista di una donna attenta alla storia della Chiesa, cristiana, ma con esperienze poi di sinistra, femminista, eccetera, come Emma Fattorini. Come siamo messi? Siamo messi peggio che 20 anni fa o 30 anni fa rispetto a ciò che si pratica intorno a noi e a ciò che la Chiesa, come Sua Eminenza Scuola, dice su queste cose dell'amore e del sesso? Oppure la grande frattura degli anni 60 e 70, eccetera, in qualche maniera mostra qualche segno di ricomposizione, a giudizio di Emma Fattorini? Peggio o meglio non saprei. Certo, nel bellissimo discorso, secondo me, di Scola, del patriarca Scola, due erano i caposaldi che bisognerebbe confrontare con la cultura degli anni 70. Una è l'imprescindibilità della relazione, la relazionalità, e due questa valorizzazione della differenza, per cui lui mette insieme anche degli autori molto, molto strani da accostare come von Balthasar e Lairi Garai, no? Ad essere i due, questi sono i due caposaldi, e in questo lui allude, e anche lei in tutte queste premesse anche polemiche, a una giustissima e sana alleanza del miglior pensiero della Chiesa, ma qui non c'entra il concilio, pre e post, è proprio un evergreen, con il miglior pensiero delle donne, con la migliore psicanalisi, cioè un'alleanza per combattere esattamente che cosa? Quello che prima era l'estraneità, la lotta, il conflitto tra i sessi, e ora è diventata i due sessi che si ignorano e producono quello che lei diceva, cioè una parte una mercificazione spaventosa del corpo femminile, dall'altra una violenza negli estremi, una violenza maschile reattiva, che non che sembra proprio sconfermare la possibilità di un rapporto maturo, completo, appunto il bell'amore. Ecco, questo è un po' il quadro che lui dava, che secondo me è assolutamente realistico, tra l'altro è proprio così. C'è in questo discorso della consumazione subito, mi viene in mente quello che diceva Winnicott, no? Il grande psicanalista inglese, quando considerava la confusione tra bisogno e desiderio, no? Questo fatto di confondere un desiderio consapevole, che è come diceva lei, insomma, no? Guardare negli occhi, l'idea insomma di una unitarietà della persona, una completezza, con la dimensione compulsiva della consumazione ansiogena e compulsiva. Invece questo richiamo non è un richiamo solo della Chiesa, questo voglio dire, per questo mi ascoltatore bisognerebbe capire il valore umano comune per tutti di questa grande bellezza, cioè l'idea del sentirsi interi, cioè dell'unitarietà del corpo e della mente, no? E non essere strumentali non solo verso l'altro, che questa è quasi una banalità, poi non ci si riesce lo stesso, ma verso se stessi, cioè non essere strumentali in primo luogo verso se stessi, capisce cosa voglio dire? Certo. Cioè questo discorso dell'essere interi, della unitarietà, ecco, questi sono gli elementi su cui secondo me dovremmo proprio tutti quanti, ecco, allearci, cioè per questo trovo veramente una regressione pazzesca quando lei mi chiedeva meglio o peggio, ecco, il peggio sta tutto lì, che mentre prima ci potevano essere dei terreni comuni, magari sbagliati, magari concorrenziali, come è stato il femminismo più furioso, però c'era un'idea comune. Adesso c'è questa scissione tra laici e cattolici, tra appunto chi si chiede più avanti, chi si chiede più indietro. Non c'è la consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca e che questi sono i problemi di tutti. Ecco, quindi la domanda poi vera che poneva Scola, secondo me, è come concretamente, e lì io avrei delle perplessità invece su come la Chiesa l'affronta, come concretamente si dà una risposta a questo bisogno di bell'amore e di amore completo. Ecco. Su questo avrei delle più che critiche, insomma, di vedere proprio dei limiti della Chiesa in primis, cioè, perché sul piano della relazione uomo-donna e la sessualità ci vuole questa alleanza generale, secondo me, ma sul piano della vita interna della Chiesa, la Chiesa per prima fa fatica a concretizzare questo disegno, là dove per esempio tanti documenti della Chiesa, ma questo partire dal Concilio che vedeva nelle donne un segno dei tempi, della sua presenza pubblica, fino da Wojtyła fino a Ratzinger, no? Questa valorizzazione della differenza femminile, poi in concreto invece nella Chiesa questo non va avanti. E questo non lo dico per una rivendicazione corporativa, no? Ma la paura del sacerdozio, la paura di potere della Chiesa, della donna nella Chiesa, fa sì che non si rompa quella compattezza maschile, quella complicità, quella uniformità, no? Quasi omoerotica della Chiesa, tutta maschile, che poi insomma è la radice, la ragione della crisi del sacerdozio, che non è giustamente, come diceva il patriarca, il celibato, ma è questa separatezza dal mondo della vita concreta, proprio quella che lui richiama, cioè quella della soggettività, della sapienzialità, capisce cosa vuol Certamente. Dire, no? Cioè è vissuta che può essere che si può realizzare solo se è vissuta nelle due modalità, quella femminile e quella maschile. E se è vissuta, nel mondo, come poi nella lezione di Gesù, dei Vangeli, del saper dare scandalo, mentre la separatezza come autotutela da un mondo di cui altrimenti poi si cade a propria volta nel peccato, nella pedofilia, nello scandalo, di tutto quello di cui si parla, la separatezza provoca esattamente questa cosa, che sui temi della sessualità e delle donne, del ruolo delle donne, ecco, che dice Emma Fattoni, lì la Chiesa poi diventa problema a se stesso e al farsi capire meglio. Professor Curi, ma com'è che la domanda che le faccio dopo il minuto che scatta adesso dopo la mia domanda, l'informazione sulla circolazione stradale, è com'è che il tema dell'agape e dell'amore, così fondamentale per tutta la filosofia dell'Occidente, finisce poi per dividere il più del pensiero e della filosofia nella modernità e nella postmodernità rispetto a quello che dice il patriarca, a quello che dice la Chiesa? Questa è la mia domanda. Eccoci tornati in studio e dopo la lettera mandata dal patriarca di Venezia su bell'amore e la sessualità ai veneziani, che ci ha spiegato la prima lezione di Emma Fattorini, eravamo fermi a una domanda che avevamo posto al professor Curi. Professore. Ma guardi, in linea generale sono d'accordo con le argomentazioni adotte da Emma Fattorini. Anche a me sembra che si tratti di un discorso molto importante, che presenta certamente alcuni aspetti di rilevante novità per quanto riguarda l'impostazione generale che la Chiesa ha dato a queste tematiche, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Ecco, sarei da un lato un po' più portato a cogliere però in questo discorso alcuni aspetti, se non di ambiguità, almeno di ambivalenza, e dall'altro tenterei di andare un po' più in profondità per quanto riguarda proprio la nozione che Scola ha posto alla base del suo ragionamento, cioè quella di bell'amore. Ecco, a me sembra francamente che più che essere rilevante questa, direi perfino questa espressione, la scelta di questo termine, più che essere rilevante per quanto riguarda il riferimento implicito e esplicito ad alcuni autori o correnti recenti del pensiero contemporaneo, quella espressione è importante perché ricalca e cita direttamente il testo biblico, cioè l'idea che amore e bellezza costituiscano un intero che non può essere in nessun modo scisso, pena l'impoverimento della nozione stessa, oltre che della pratica dell'amore. Questo mi sembra un punto molto importante, cioè il riconoscimento che l'amore non ha semplicemente una dimensione di carattere affettivo, passionale, sessuale o addirittura genitale e riproduttivo, come a lungo l'insegnamento della Chiesa nel corso del Novecento sembra aver indicato, ma l'amore ha principalmente una funzione, noi potremmo dire con un termine strettamente filosofico, ontologica. Ontologica, esatto. E cioè serve a ricostituire quella unità dell'essere che rischia invece di essere depotenziata o addirittura completamente smarrita ove l'amore non venga in qualche modo praticato oltre che concepito nella sua genuina essenza. Da questo punto di vista non va dimenticato che la nozione biblica di bell'amore, quella che, a cui ci si riferisce, che nel discorso di scuola è per lo più, per la verità, allusa attraverso l'espressione del termine, più che esplicitamente citata, questo riferimento biblico può essere accompagnato dal riferimento a quello che anche il grande pensiero greco, pressappoco nello stesso periodo, stiamo tra il IV e il V secolo avanti Cristo, pensa a proposito dell'amore. Tanto è vero, professore, che appunto la citazione al Siracide, quella che ispira tutto questo discorso del cardinale e ciò di cui stiamo dicendo, è in un passaggio del Siracide in cui si fa l'elogio della sapienza. Quindi questo, proprio per questo anche a lei proponevo, perché anch'io sono convinto che sia qualcosa che unisce rispetto ai fondamenti del pensiero occidentale, ma non volevo interromperlo. No, no, anzi, si può riprendere esattamente da questo punto. Troppo spesso, anche nell'ambito di alcuni studi per altri versi attendibili, si è teso a contrapporre la nozione greca di Eros e la nozione cristiana di Agape, come se l'Eros fosse l'esaltazione unilaterale, diciamo così, dell'aspetto carnale e sessuale dell'amore, tanto quanto l'agape sarebbe una valorizzazione altrettanto unilaterale della dimensione spirituale. Non è così, e il riferimento di carattere biblico e specificamente il riferimento al Siracide andrebbe, diciamo così, messo vicino a quello che Platone scrive dell'Eros sia nel Fedro che nel Simposio, dove non è affatto vero che quel tipo di Eros sia da intendere come nettamente contrapposto alla concezione che poi verrà soprattutto col cristianesimo, alla concezione cristiana dell'agape. Questi mi sembrano gli aspetti, devo dire, più interessanti, più importanti. Non sempre le novità si ritrovano, come dire, snocciolando qualche neologismo, e come in questo caso le si possono ritrovare invece appunto in questo tentativo di valorizzare una parola antica, qual è la parola del bell'amore. Ci sono poi, per la verità, altri aspetti di questo complesso discorso di scuola che sono meno convincenti. Da un lato alcune cose che, per quanto riguarda questo grande tema dell'amore, vengono sorprendentemente taciute, e dall'altro in qualche modo la riproposizione, una sorta di tic intellettuale che sembra non mancare mai ai pastori della Chiesa quando affrontano questo tema, e cioè alcuni scivolamenti per quanto riguarda la tematica dell'amore e della sessualità che riproducono una sorta di ossessione del sesso che abbiamo visto presente nelle posizioni del Magistero della Chiesa, soprattutto negli ultimi 20 o 30 anni. E però le dirò che a me ha colpito, rispetto insomma all'abituale riferimento e al peso che questo discorso ha quando si parla di amore della dottrina o nel ripetere la dottrina da parte dei pastori, il fatto che mi sembrava che questa volta ce ne fosse abbastanza poco di questo ossessivo tornare, è un punto delicato, un nervo scoperto, come quella tensione alla separatezza della tutta maschile di cui faceva riferimento invece nel suo intervento Emma Fattorini. Marina Terragni, giornalista di O'Donna e attenta anche lei a cose della Chiesa e attenta soprattutto alla realtà che ci circonda, la conclusione, dal suo punto di vista, un messaggio come questo rispetto alla guerra dei sessi e alla guerra del sesso che c'è intorno a noi nella società. Io ne parlo esplicitamente in maniera polemica, perché penso che la testimonianza del proprio tempo si renda mettendo gli occhi di fronte agli scandali. Gli scandali sono un sesso di cui tutti pensano che la Chiesa sia, e lo è, per via della pedofilia nascosta negligentemente o per dolo per decenni, ma il problema è che nella vita di tutti i giorni intorno a noi viviamo e pratichiamo una guerra in cui il sesso è violenza, sopraffazione, mercificazione, mancato rispetto della donna, dei bambini, delle ragazze, dei ragazzi, degli stranieri, della tratta delle carni di cui milioni di uomini italiani si servono ogni giorno. E a me questa roba mi indigna, va bene, mi indigna, perché non ci voglio in una realtà così. Mi sembra che prima di dire la Chiesa fa scandalo, ma che cacchio ci raccontano di castità questi miserabili, come è la reazione di molti che mi stanno bersagliando, penso che dovremmo guardarci tutti in faccia. A Marina Terragni chiedo, non è che per caso è il tentativo di non guardarci in faccia a tutti quello che poi ci indica quello che dicono esponenti della gerarchia come un signor Scola come fonte di scandalo? Perché non ci fa scandalo come pratichiamo il sesso, senza generalizzare, ma a milioni nel nostro paese di oggi? Ho letto recentemente un libro che faceva un reportage, si chiama Babilonia, sull'Italia del sesso. Dato che siamo a Radio 24, caro Oscar, mi viene da dire che il sesso mi sembra poi alla fine un pessimo investimento. Il sesso così, da cui veniamo bombardati, ossessionati, con una normatività che forse la storia umana non ha mai conosciuto, penso che più, come si dice, più se ne parla e meno ne trae felicità. Alla fine di una vita umana, io penso che nel bilancio il piacere che si è tratto dal sesso è veramente poca cosa rispetto alle energie che siamo in qualche modo costretti a investirci. A me piace molto del patriarca questo invito a una ragionevole felicità. Ecco, di questa ragionevolezza, di questa pazienza, le donne sono storicamente sempre state portatrici. Ecco, l'esito di questa, quella perversione dei rapporti tra i sessi di cui parlò Ratzinger in una bellissima lettera quando ancora non era Papa, che perversione che è stato il dominio dell'uomo sulla donna, rischia di essere oggi un'altra perversione più sottile, che è il dominio del modello maschile sul femminile, il che vuol dire un adattamento delle donne al modo maschile di concepire la sessualità, le relazioni, il lavoro e il mondo. Cioè, in definitiva, un'omologazione a cui diamo il nome di emancipazione, parola che oggi viene usata sempre ancora in un'accezione positiva, mentre io ne percepisco il negativo, perché contiene nella sua radice, trattiene in sé l'idea della schiavitù. Insomma, noi abbiamo a che fare oggi, quindi, soprattutto nella dinamica tra i sessi, con la rovinosa scomparsa dell'altro. Il primo altro di cui facciamo esperienza è l'altro sesso. Ecco, non saper accettare e dirimere il conflitto inevitabile che c'è con l'altro ha delle conseguenze devastanti. Ora, no, noi non possiamo continuare a pensare che per dirimere questo conflitto tra i sessi ci vuole il dominio di un sesso sull'altro, ma non si può nemmeno pensare che la soluzione sia la lontananza definitiva tra i sessi e la rinuncia al legame, cosa di cui oggi vediamo portatrici, esatto, soprattutto le donne. Ecco, questo a me colpisce molto e sono felice che Marina Terragni sia riuscita veramente in pochissimo, nel troppo poco che gli ho dato, ad arrivare a questo, perché la reazione poi alla sopraffazione, che è il segno che ispira il più, secondo me, dell'amore e del sesso oggi nel mondo del consumo immediato, secondo me, è questa separazione separazione, e la separazione come reazione di una cultura, quella della consapevolezza femminile, che si sente tanto defraudata di un piede di parità, ma di rispetto, che poi diventa una reazione, per così dire, speculare, simmetrica, uguale, contraria, ancora più chiusa rispetto a quella specie di tensione omoerotica che è invece la classica pulsione maschile del chiudersi su se stessi e nel darsi confidenza in una sopraffazione non dichiarata, che è la stessa che io vedo poi nel comportamento della Chiesa che copre la pedofilia per decenni. La sopraffazione come terreno comune non dichiarato è un elemento di complicità maschile per chi sa vivere il proprio genere, che va superato nel rispetto di sé e dell'altro, del nostro tempo quotidiano e della nostra capacità di essere uomini, attori, consumatori e anche fruitori e costruttori di amore e di sesso intorno a sé, sia una delle chiavi fondamentali del nostro tempo. Oggi l'ho fatto, ma ho sferato il tempo, grazie a Sua Eminenza Scola, a Marina Tenagna, Emma Fattorini, Umberto Curi. L'appuntamento a domani.